desert or in the jungle. Styles are murder. In the desert or in the jungle. Styles are murder. Oh, Nara, sa loca na to rara. Prepara el jazz y móvil, si feels una gandara. Oh, Nara, po vinci gusta cara. Ci polire una bella grica de gente embriaga. Oh, Nara, sa loca na to rara. Prepara el jazz y móvil, si feels una gandara. Oh, Nara, po vinci gusta cara. Ci polire una bella grica de gente embriaga. Chocula, brinta, stupa sabita. Se ria su farmacista, sa rapa incominzara. Ascuta, buste sa, grica de ziniga sa. C'è temerda inza domu, gasboria sa garrara. E tirria Boga sa grinta e pensa po' tu su Fuste su vu e tu vo' sa rapa dei sfratocu su Piganta vo' gulu a sa bella vaci dei satru su No tanto ancora comprendi a ca non c'è sa gabbia ma tu su Genti mala sbrucara, molto stara sa tiara Ma tocca da tennis calloni si vo' vinci gusta gara Po' vinci gusta gara, tocca da tennis calloni si vo' donne vibrazioni si tocca gonfia sprumoni si si gendis tradizioni si sa boci si va in tendi Su sono originali e custe arriba rimbalzendi In sa domu genti macca vai di danno su Va sant'esanno su, sempre brumanno su Sempre un macusu, non torrente sconto su, mandi balli sarena. No su no si bendosa gente allena, con sa buccia cabrena. Non ci punti problema, sa si crema, sa si sighi gustu tempo d'allena. Sa non t'arena, sa non ti masa, sa gente sa te sighi gusta gricca. Su sono originali, gente merda, zichinica. Oh, Nara, sa loca netto rara. Prepara il jazz di mobi, casi feus una gandara. Oh, Nara, po vinci gusta gara. Ci polire una bella gricca de gente imbriaga. Oh, Nara, sa loca netto rara. Prepara il jazz di mobi, casi Veus una gandara Oh, Nara, po vinci gusta gara Ci polire una bella gricca de gente imbriaga Enza, goppa, itta, ci vai sin fora Sa ben in custa domo e la saver di sparanoia Sa maloria, sa gandu boca, sa storia, sa de moda Sa disefendi, sa bulliga, ma noi va santa isora Sa avarra, umili, sfrutta su tempo utili Se zomini scelti, gandu su sanguni budiri Dimostra mica balli, si vari, si abili Chi mali, vati, si scaresci, si cosa importanti, si Deo, no demu, comprendi un finza zagandu Non ha pubiu gente Atiendi a sutta de su palco Ma cucu un bacchetto a bacu Pronto vo su stacu Zacu gracu su campu Gandu bandu foti che quadu Original coru e anima Rima se musica se zi di noi capu fa sa Ben in custa doma barra tranquillo ga di spassia Sa si di rilassa sa la sa sa perdido tu stassa Sa ci va sa su del cusu Intro vedda se sfu e brusu Sa cosa più importante è che non mollis in su melusu Po vinci gusta gara Ci boliri su suono originale ascuta e impara Sa veste in cumenzare e mo c'è gente già embriaga C'è chi ni da prepare e chi ni da di già spacciara Chi in cambarada sa te e si ghe su tempo Custe su suono buono vos caresci su drumento Oh Nara sa loca netto rara Prepara il jazz di mobi casi feus una gandara Oh Nara po vinci gusta gara Ci boliri una bella gricca de gente embriaga Oh Nara sa loca netto rara Prepara il jazz di mobi casi feus una gandara Oh Nara, po vinci gusta gara Ci polire una bella gricca de gente imbriaga Oh, Nara, sa loca netto rara Hardcore nuclear Fate sentire, oh!